Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Alle 5 precise il conte, accompagnato da Ali, arrivò davanti alla villa d'Auteuil. Bertuccio lo aspettava con un'impazienza mista e inquietudine, sperando in qualche frase di elogio e temendo anche il solo aggrottare delle sopracciglia del conte. Montecristo discese nel cortile, visitò tutta la casa e fece silenzioso un giro nel giardino. «Bene», disse. E il signor Bertuccio si ritirò soddisfatto e felice, tanto era grande, potente e reale l'influenza di quell'uomo su tutto ciò che lo circondava. Alle 6 precise si udì scalpitare un cavallo davanti alla porta d'ingresso. Era il nostro capitano Morrel. Montecristo l'aspettava sorridendo nel vestibolo. «Eccomi per primo, ne sono sicuro!» esclamò Maximilien. «L'ho fatto apposta per avervi un momento tutto per me solo. Il signor di Châteaurenault, l'intenditore di cavalli più raffinato di tutta la Francia, e Debré, che monta i cavalli arabi del ministero, corrono dietro di me in questo momento, e sono ancora un po' indietro, come vedete, incalzati dai cavalli della baronessa Danglars, che vanno comodi a non più di 6 leghe l'ora. Dunque vi seguono?» domandò Montecristo. «Eccoli, arrivano». Infatti, in quello stesso momento, un coupé tirato da 2 cavalli sbuffanti e 2 cavalli da sella ansimanti giunsero al cancello della casa, che si aprì davanti a loro. Descritto un semicerchio, il coupé, seguito dai 2 cavalieri, venne a fermarsi davanti alla scalinata esterna. In un attimo, Debré mise il piede a terra e accorse allo sportello. Offrì la mano alla baronessa, che scendendo gli fece un gesto impercettibile a tutti, fuorché a Montecristo, al quale nulla sfuggiva. Egli vide un bigliettino bianco, impercettibile quanto il gesto, che passò dalla mano della signora Danglars in quella del segretario del ministro con una facilità dovuta certo all'abitudine. Dietro sua moglie discese il banchiere, pallido, come se uscisse da un sepolcro anziché dal coupé. La signora Danglars gettò intorno a sé uno sguardo rapido e investigatore che Montecristo soltanto poté comprendere e con il quale essa abbracciò il cortile, il peristilio e la facciata della casa. Poi, reprimendo una leggera emozione che sarebbe certamente comparsa sul suo viso se al suo viso fosse stato permesso di impallidire, salì la scalinata. Nel frattempo, il maggiordomo Baptistin annunciò: «Il signor maggiore Bartolomeo Cavalcanti! Il signor Visconte Andrea Cavalcanti!» Un colletto di raso nero appena uscito dalle mani di un sarto, una barba fatta di recente, baffi grigi, uno sguardo sicuro, un abito da maggiore ornato di 3 medaglie e 5 croci, insomma, un portamento irreprensibile da vecchio soldato. Tale apparve il maggiore Bartolomeo Cavalcanti, quel tenero padre che conosciamo. Accanto al padre, vestito di abiti nuovi, con il sorriso sulle labbra, avanzava il visconte Andrea Cavalcanti, quel rispettoso figlio che ugualmente conosciamo. «Chi sono questi signori?» chiese Danglars al conte di Montecristo. «Non avete sentito? I Cavalcanti. Ciò non mi dice che è il loro nome. Ah, è vero, non conoscete la nostra nobiltà italiana. Chi dice Cavalcanti dice razza di principi. Buon patrimonio?» domandò il banchiere. «Favoloso! Che cosa fanno?» «Provano a consumarlo senza riuscirvi. A quanto mi hanno detto l'altro giorno quando sono venuti a farmi visita, hanno un conto aperto presso di voi. Li ho invitati per farveli conoscere e ve li presenterò.» «Il signore e la signora di Villefort!» gridò Baptistin. I 2 personaggi annunciati entrarono. Il signor di Villefort, nonostante esercitasse un controllo su se stesso, era visibilmente turbato. Stringendogli la mano, Montecristo si accorse che tremava. «Solo le donne sanno dissimulare», disse fra sé Montecristo, guardando la signora Danglars che sorrideva al procuratore e abbracciava la di lui moglie. Thank you. «Non è vero, signor Conte?» chiese Château Renaud, «che avete comprato questa casa appena 5 o 6 giorni fa?» «Al massimo», disse Montecristo. «Ebbene, sono sicuro che ha subito una completa trasformazione, perché era molto vecchia e anche assai triste. Mi ricordo di essere stato incaricato da mia madre di visitarla, quando il signor Conte di Saint-Méran la mise in vendita, 2 o 3 anni fa. Apparteneva dunque al signor di Saint-Méran questa villa, prima che la compraste voi, signor Conte?» disse la signora di Villefort. «Pare di sì», rispose Montecristo. «Come pare? Non sapete da chi avete comprato questa casa?» «In fede mia no. È il mio intendente che si occupa di questi particolari.» È vero che da almeno 10 anni non era abitata», disse Château Renaud. «Faceva una gran tristezza vederla sempre con le persiane e le porte chiuse e il cortile invaso dall'erba. In verità, se non fosse appartenuta al suocero di un procuratore del re, si sarebbe potuta crederla una di quelle case maledette in cui è stato consumato qualche grande delitto.» Villefort, che fino allora non aveva ancora toccato nessuno dei 3 o 4 bicchieri di vini straordinari posti davanti a lui, ne prese uno a caso e lo vuotò tutto d'un fiato. Montecristo lasciò passare un momento, poi nel silenzio seguito alle parole di Château Renaud. «È strano, signor barone», disse, «ma mi è venuto lo stesso pensiero la prima volta che vi sono entrato, e questa villa mi parve così lugubre che non l'avrei mai comprata, se il mio intendente non l'avesse già fatto per me. Vi era soprattutto una stanza, semplicissima in apparenza, una stanza come tutte le altre, tappezzata di damasco rosso, che mi è sembrata, non so perché, terribilmente lugubre.» «E perché?» domandò Debray. «Perché lugubre?» «Si può forse rendere conto delle sensazioni istintive?» disse Montecristo. «Non vi sono forse dei luoghi in cui ci sembra di respirare un'aria malinconica? E perché? Non se ne sa niente. Per una concatenazione di idee, per un capriccio del sentimento che ci trasporta in altri tempi, in altri luoghi, che non hanno forse alcun rapporto con i tempi e i luoghi in cui ci troviamo. Tutto ciò fa che questa stanza mi ricordi quella della Marchesa di Ganges o quella di Desdemona.» «Beh, in fede mia, sentite, giacché abbiamo finito di pranzare, bisogna che ve la mostri. Poi scenderemo in giardino a prendere il caffè. Dopo il pranzo, lo spettacolo.» La famosa stanza non aveva nulla di particolare, se non che, quantunque fosse già sera, non era illuminata. Conservava tutta la sua vetustà, mentre tutte le altre stanze erano state rimesse a nuovo. Questi due particolari bastavano a conferirle un'aria lugubre. «È davvero spaventosa!» gridò la signora di Villefort. La signora Danglars provò a balbettare alcune parole che non furono sentite. Si fecero parecchie osservazioni, da cui risultò che la camera di damasco rosso aveva un aspetto sinistro. «Non è vero?» disse Montecristo. «Guardate com'è bizzarra la disposizione di questo letto. Che tetra tappezzeria color sangue! E questi due ritratti a pastello, scoloriti dall'umidità, non sembrano dire con le loro labbra smunte e i loro occhi spaventati: "Io l'ho visto!" Villefort divenne livido. La signora Danglars cadde sopra una sedia presso il caminetto. «Oh!» disse la signora di Villefort, sorridendo. «Avete il coraggio di sedervi sopra questa sedia su cui forse è stato commesso il delitto?» La signora Danglars si alzò immediatamente. «E poi non è tutto!» disse Montecristo aprendo una porta nascosta sotto la tappezzeria. «Che scala sinistra!» disse Château Renaud ridendo. «Immaginatevi!» riprese Montecristo. «Un Otello o un abate di Ganges scendere passo passo in una notte tetra e burrascosa questa scala con qualche lugubre fardello che abbia fretta di nascondere alla vista degli uomini e allo sguardo di Dio.» La signora Danglars venne al braccio di Villefort, che fu costretto lui pure ad appoggiarsi al muro. «Mio Dio, signora!» gridò Debray. «Che avete dunque? Come impallidite!» «Che cos'ha?» disse la signora di Villefort. «Ma è semplice! Il signore di Montecristo ci racconta delle storie spaventose, senza dubbio, con l'intenzione di farci morire dalla paura.» Oh mio Dio, sì, disse Montecristo sorridendo. Tutto questo è immaginazione. Non potremmo ugualmente immaginarci questa camera come quella di una buona e onesta madre di famiglia? Questo letto con le cortine color porpora come un letto visitato dalla dea Lucina? E questa scala misteriosa come il passaggio per il quale dolcemente e per non disturbare il sonno ristoratore della puerpera passi il medico o la nutrice o il padre stesso portando il bambino che dorme? Questa volta la signora Danglars, anziché rasserenarsi a quella dolce versione, emise un gemito e svenne di nuovo. «La signora Danglars si sente male!» balbettò Villefort. «Forse è meglio trasportarla nella sua carrozza!» «Mio Dio!» disse Montecristo. «Ho dimenticato la boccettina!» «Ho la mia!» disse la signora di Villefort, e porse a Montecristo una boccettina con un liquore rosso, simile a quello di cui il conte aveva sperimentato su Edouard la benefica influenza. «Ci siete riuscita?» disse Montecristo prendendola dalle mani della signora di Villefort. «Sì», mormorò questa. «Dietro le vostre istruzioni, ho provato. E siete riuscita?» «Credo di sì». La signora Danglars era stata trasportata nella camera accanto. Montecristo le lasciò cadere sulle labbra una goccia del liquore rosso. E lei ritornò subito in sé. «Oh mio Dio!» disse. «Che sogno spaventoso!» Villefort le strinse con forza il braccio per farle capire che non aveva sognato. Si cercò il signor Danglars, ma poco disposto alle impressioni poetiche, era disceso in giardino e parlava con il signor Cavalcanti padre di un progetto di ferrovia da Livorno a Firenze. Montecristo fingeva di essere disperato. Prese il braccio della signora Danglars e la condusse in giardino, dove ritrovarono il signor Danglars che prendeva il caffè fra i signori Cavalcanti padre e figlio. «In verità, signora», le disse, «vi ho proprio spaventata». «No, signore, ma come sapete le cose fanno impressione secondo le disposizioni di animo in cui ci troviamo». Villefort si sforzò di ridere. «E allora», disse, «capite bene che basta una supposizione e...» «Ebbene», disse Montecristo, «non credetemi se volete, ma ho la convinzione che in questa villa sia stato commesso un delitto». «Fate attenzione», disse la signora di Villefort. «Abbiamo qui il procuratore del re». «Meglio», riprese Montecristo. «Vista l'occasione, ne approfitterò per fare la mia denuncia». Montecristo prese il braccio di Villefort e, mentre stringeva sotto il suo quello della signora Danglars, trascinò il procuratore fin sotto il platano dove l'ombra era più fitta. Tutti gli altri convitati li seguivano. «Guardate qui», disse Montecristo. «In questo preciso punto!» E batteva con il piede la terra. «Qui! Per ringiovanire questi alberi già vecchi ho fatto scavare il terreno e mettere del concime. Ebbene, i miei lavoratori scavando hanno dissotterrato un forziere, o piuttosto i resti di un baule, in mezzo ai quali fu trovato lo scheletro di un neonato. Questa non è fantasia, spero!» Montecristo sentì irrigidirsi il braccio della signora Danglars e fremere il pugno di Villefort. «Oh, e chi dice che sia stato un delitto?» riprese Villefort facendo un ultimo sforzo. «Come? Un neonato seppellito vivo in un giardino non è un delitto!» gridò Montecristo. «Come chiamate allora quest'azione voi, signor procuratore del re? Ma chi dice che sia stato seppellito vivo? E perché seppellirlo qui se era morto? Questo giardino non è mai stato un cimitero». «Qual è la pena per gli infanticidi in questo paese?» domandò ingenuamente il maggiore Cavalcanti. «Oh mio Dio! Semplicemente si taglia loro il collo!» rispose Danglars. «Si mandano alla ghigliottina!» disse Cavalcanti. «Lo credo! Non è vero, signor di Villefort?» domandò Montecristo. «Sì, signor Conte!» rispose Villefort con un accento che non aveva più nulla di umano. Montecristo comprese che quello era tutto quello che poteva far sopportare ai due individui per i quali aveva preparato quella scena, e non volendo spingersi oltre... «Ma il caffè, signori!» disse. «Mi sembra che lo dimentichiamo!» e ricondusse i convitati verso la tavola, posta in mezzo al prato. La sera andava inoltrandosi. Andrea Cavalcanti raggiunse il suo calesse che l'aspettava davanti alla porta e un domestico, dai modi eccessivamente inglesi, con la mano sinistra prese il morso per trattenere il cavallo impaziente che batteva il terreno con lo zoccolo, mentre con la destra offriva le redini ad Andrea, che le prese e posò leggermente il piede sul predellino. In quel momento una mano si appoggiò sulla sua spalla. Il giovane si voltò, pensando che Danglars o Montecristo avessero dimenticato di dirgli qualcosa. Ma invece dell'uno o dell'altro, vide una strana figura, arsa dal sole, con una barba ben curata, occhi brillanti come carboni accesi e un sorriso beffardo sopra una bocca in cui brillavano 32 denti bianchi, aguzzi e famelici come quelli di un lupo o di uno sciacallo. Un fazzoletto a quadretti rossi copriva quella testa dai capelli grigiastri e polverosi. Una giacca sporca e stracciata rivestiva il suo corpo magro e ossuto. Il giovane riconobbe questa figura al chiarore della lanterna del calesse o fu soltanto colpito dal suo orribile aspetto? Non sapremmo dirlo. Il fatto è che trasalì e indietreggiò immediatamente. «Che volete da me?» disse. «Voglio che mi lasci salire sulla tua bella carrozza e che tu mi riconduca in città!» Andrea impallidì, ma non rispose. «Oh mio Dio, sì!» disse l'uomo dal fazzoletto rosso affondando le mani nelle tasche e guardando il giovane con occhi provocatori. «È un'idea che mi è venuta, mio caro Benedetto!» A quel nome il giovane dovette senza dubbio riflettere, perché si avvicinò al domestico dicendogli: «Quest'uomo è stato incaricato di una commissione di cui deve rendermi conto. Andate a piedi fino alla barriera, là prenderete una carrozza per non ritardare troppo». Il servitore, sorpreso, si allontanò. «Lasciatemi almeno andare in un posto sicuro», disse Andrea. «Oh, quanto a questo, io stesso ti condurrò in un bel posto, aspetta», disse l'uomo dal fazzoletto rosso, e preso il cavallo per il morso, condusse la carrozza in un luogo dove era effettivamente impossibile notare l'onore che Andrea gli concedeva. «Oh no!» disse. «Non è per la gloria di montare su una bella carrozza, no! È soltanto perché sono stanco e perché voglio parlare un po' d'affari con te!» «Presto, salite!» disse il giovane. Una volta fuori d'Auteuil, Andrea si guardò intorno per assicurarsi che nessuno potesse vederli né sentirli, e allora, fermando il cavallo e incrociando le braccia davanti all'uomo dal fazzoletto rosso, «Dunque?» disse. «Perché venite a turbare la mia tranquillità?» «Ma tu, ragazzo mio, perché diffidi di me?» «E in che modo diffido di voi?» «In che modo? E me lo domandi? Ci lasciamo al Ponte del Varo. Mi dici che stai per andare in Piemonte, in Toscana, invece vieni a Parigi!» «E in che cosa vi dà fastidio questo?» «In niente. Spero, anzi, che mi sia utile.» «Volete approfittare di me?» disse Andrea. «Andiamo, ecco che già cominciamo coi paroloni!» «Avreste torto, Mastro Caderousse, vi avverto!» «Ah, mi riconosci? È una brutta cosa, Benedetto, trattare così un vecchio compagno. Attento, perché diventerò esigente!» Questa minaccia smorzò la collera del giovane. Il vento della prepotenza vi aveva soffiato sopra. Egli rimise il cavallo al trotto. «È male anche per te, Caderousse», disse, «prendertela così con un vecchio compagno. È forse colpa mia se la sorte, che continua a essere cattiva per te, è al contrario buona con me?» «Ti è dunque favorevole la sorte?» «Ah, non è dunque un domestico a prestito quello? O abiti a Nolo quelli che abbiamo? Bene, bene, bene, bene, tanto meglio», disse Caderousse con occhi che brillavano di cupidigia. «Ma bisogna dare qualcosa per questo, tu capisci?» «Vediamo. Che ti occorre?» «Credo che con 100 franchi al mese, ebbene, vivrei, ma male, tu capisci, mentre con 150 franchi sarei contentissimo.» «Eccotene 200, disse Andrea, e mise nelle mani di Caderousse 10 luigi d'oro. «Bene», fece Caderousse. «Presentati dal mio portinaio, il primo giorno di ogni mese, e ne troverai altrettanti. E ora che hai ciò che vuoi e siamo arrivati, salta giù dalla mia carrozza e sparisci!»